chiacchiere distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo. Chiacchiere distintivo. Did you get your disconnection nerves? No, non ci abbiamo niente. Non mi ritorno. Ci sono? Vabbè, non mi sento in cuffia. Vabbè, comunque, mandiamo ancora qualche attimo di suoni, perché al solito per far funzionare tutta la baracca e i burattini avevamo portato delle plastiche di grande valore. Speriamo di riuscire a mandarle in onda, però insomma un po' di problemini ci sono. Per ora non so se tu hai già preparato qualcosa, oppure se dobbiamo continuare ad andare all'abbraccio, no, per molto tempo. Sì, sì, io ho preparato qualcosa, non proprio al volo, ma se mi dai proprio 10 secondi. Sì, allora no, vabbè, diciamo chi siamo e dove stiamo e dove andiamo. Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Questo è 25 o'clock, abbiamo già cominciato qualche minuto fa, un'oretta e mezza fa, un paio d'ore fa, diciamo con una piccola anteprima. Ovviamente, come tutti gli anni, ci teniamo a trasmettere in questo periodo dell'anno per ricordare sicuramente la figura, l'emblema, l'abbiamo detto l'altra volta, un po' l'emblema di una generazione, quella che è un po' la nostra generazione, che era appunto Roberto Massi Patata, che tanti anni ha speso qui in via, qua sotto, una San Lorenzo che poco fa, proprio chiacchierando nella pausa durante la trasmissione delle prove tecniche di trasmissione di Elettrodo, altra per chi non fosse un'assidua ascoltatrice di Radio Onda Rossa, altro pezzo forte di questo mercoledì notte, appunto prove tecniche di trasmissione, una trasmissione pure questa storica. Abbiamo perso veramente il conto di quando noi l'abbiamo incontrato agli inizi degli anni 90, quando per un cambio di palinsesto venne ad abitare vicino all'orario in cui trasmettevamo noi, alla vecchia Next Time. Di lì non ci siamo più persi, ma prove tecniche di trasmissione già aveva cominciato da qualche anno sulle frequenze della radio, un'altra trasmissione di quelle storiche, e quindi ci sarebbe sempre, c'è sempre da ricordare qualcosa. Ci siamo ritrovati in questo mercoledì anche Next Time, la vecchia Next Time, cioè la trasmissione che un po' è stato di anticipo, di antipodo, di formazione culturale poi per questo altro, questi altri 22 anni di trasmissione alla radio. Ed ecco, ci troviamo quindi nel 2024 con questa radio che è cambiata, ma fino a un certo punto, nel senso che poi alla fine è uno di quei punti fissi, riferimenti per tutte e tutti, compagni e compagne, o come si dice oggi, attivisti e attiviste. Radio Onda Rossa che continua a trasmettere con gli stessi canoni dell'epoca, cioè senza fare pubblicità, senza avere i padrini politici, e quindi in piena autonomia di informazione, di dibattito, di scelte, possiamo dire editoriali, insomma, e quindi continua a produrre o autoprodurre, come ci piace più a dire, più a noi dire, le trasmissioni e i podcast che trovate. Quindi molto è cambiato, molto quelli che sono i riferimenti principali della radio, il suo motivo di essere ancora sono lì. Invece una San Lorenzo che è cambiata moltissimo dalla San Lorenzo di quegli anni. Ci sei? Sì, sì, ci sono. Eravamo partiti, diciamo, dalla fine degli anni 60 con sonorità che hanno poi in qualche modo avviato, insomma, il filone, diciamo, di tutto quello che è arrivato dopo, quindi noise, garage, grunge, quello che vogliamo dire. Però bisogna fare una parentesi più che altro europea, principalmente europea, anglosassone in particolar modo, e questi erano dei ragazzotti particolarmente provocatori, insomma, ce l'avevano soprattutto con la Casa Reale, alla quale mostravano le chiappe nude, che hanno fatto, insomma, abbastanza epoca. Un classico dei Sex Pistols, I Wanna Be Your Dog. ci ho provato. La sinistra è difficile. Vabbè, i piatti ci stanno prendendo la mano, bisogna assolutamente porre rimedi e quindi torniamo torniamo a noi, CD2, sì, CD2, dunque, I want a your dog. Io voglio essere il tuo cagnolino, ovviamente è Sex Pistol, ma è la cover dei Stooges, tratta proprio dal... Allora, ci siamo e quindi passiamo da Sex Pistol barra Stooges, e c'è una continuità in questo, Sex Pistol Stooges... Potremmo aprire una parentesi lunga, una quaresima. Beh, non... avremo anche dei vinili, insomma, che hanno molto a che fare con gli Stooges. Ma... E invece passiamo a qualcosa che ancora sta su questo filone, di essere selvaggi, comunque, di non accettare regole, di andare dritti al nucleo della questione, del problema. Stiamo parlando di tempi molto più recenti, gli Idols. Il lavoro è ultramono, non gli ultimissimi lavori, stiamo parlando di 2020, quindi un disco che ha già 4 anni, ma comunque loro hanno una produzione piuttosto frequente, ogni anno, anno e mezzo fanno uscire un lavoro nuovo. E avevamo così introdotto questa roba del del mettere al centro di così voler ricordare che nell'universo della musica molto maschile, insomma, in realtà ci stanno ok, sì, non sapevo che cosa stava succedendo. Dicevo, invece l'altra parte del mondo, tutto l'universo femminile, ha molto da dire in questo aspetto, da questo punto di vista, e quindi ci andiamo ad ascoltare. Con gli Idols invece anche Johnny Bett, Johnny Bett che poi ascolteremo in altra forma, che insieme a Jotalbo appunto fanno duetto in questa Ne touche pas moi, che poi è francese ed è la lingua madre di Johnny Bett. Quindi da capo direi a Radio Rossa 25 o'clock 06 49 17 50. Insomma, avevamo diciamo Destroy All Monster in vinile, che sarebbe stato un bel legare con gli Stooges, ma non è questo il momento né questa la serata, e quindi torniamo sulla scena punk, in realtà da chi l'ha vissuta da spettatore, anzi da accompagnatore, ecco, si tratta di Siouxsie e Banshees. Siouxsie, ragazzotta diciamo che si è formata nei locali, così ascoltando e guardando e assistendo ai concerti dei Sex Pistols, è diventata poi una delle loro accompagnatrici più illustri e più importanti. Alla fine è salita sul palco anche lei, senza troppe pretese dal punto di vista, come dire, dottrinale della musica, concerti più che altro del fare, del cantare e del fare. Quindi Siouxsie Machines in una versione, direi, abbastanza singolare di un brano che arriva da una tradizione che forse poco ha a che fare col punk, arriva da una tradizione Beatles. Questa però è la sua versione di Dear Prudence. Proprio di quello volevamo parlare. Proprio di questo volevamo parlare, che cioè ci stanno. All'inizio abbiamo introdotto un po' l'argomento di questi spiritelli, delle persone che, compagni, amici, amiche e tutto quanto, che comunque ritornano in qualche maniera, magari non vengono percepiti normalmente perché la nostra razionalità non ce lo permette, però penso che nella forma di fare gli spetti ci stanno. E uno di questi appunto è sicuramente lo spirito di Roberto, che vive nelle praterie, come diceva qualcuno, nelle verdi praterie, e che non ci ha fatto, cioè c'erano i dischi suoi stasera e niente, non, in maniera inspiegabile tutto funzionava, tutto doveva essere perfetto, invece nemmeno proprio passando direttamente il disco sopra. E l'altro spiritello che sicuramente era presente era quello di un altro Roberto Perciballi, l'altra sera, proprio il 16 di questo mese di febbraio, c'è stato il concerto per Roberto organizzato un po' da una crew di vari altri elementi. Roberto ha seminato molto, ha raccolto purtroppo dopo la fine della sua corsa qua sul nostro mondo, e quindi c'è stata una, come? No, non c'è un altro mondo purtroppo. No, non lo conosciamo, no. Poi. No, però diciamo che su questo mondo ha seminato parecchio e non è stato poi in grado di raccogliere poi quello che ha seminato. Ormai da tanti anni, oltre a appunto questo nostro misero spazio che facciamo così di autocompiacimento, si fa un concerto. Alcune volte è stata protagonista anche la radio, in alcune occasioni, in altre occasioni insomma è venuto da solo. E questa roba qua insomma comunque è sempre una cosa piacevole per noi, che invece siamo rimasti qua a tribolare, e in quanto poi ci si abbraccia, ci si riconosce invecchiati molte volte, ma dicevamo prima 50-50% di pischelli e 50% di veterani, diciamo, di gente ormai è arrivata. E quindi tre e mezzo, perché poi oddio, ci siamo persi i diretti a 16, non so se poi alla fine hanno suonato o no, perché insomma il marasma è stato tanto. Uno di quei marasmi, appunto, diciamo, lo spiritello di Roberto Perciballi ha fatto rompere per due volte la pelle della batteria della gran cassa, della cassa, al batterista dei Bloody Riot, e quindi due interruzioni, la seconda fatale, per cui hanno lasciato il posto ai Giuda, che più tardi sentiremo. Comunque insomma, buona partecipazione, gente molto contenta, una bella atmosfera, abbiamo avuto il piacere di esserci, insomma. E un saluto pure, un abbraccio a tutte e tutti quelli che c'erano quella sera. E possiamo andare avanti, quindi la terza traccia, perché avevamo parlato prima di Jenny Beth, questa volta Savages, cioè il gruppo britannico, con lei però di provenienza francese, gruppo tutto al femminile, The Savages, e la traccia, non ce la ricordiamo, come si chiamava, si chiama, aspetta, City qualcosa, adesso lo cerchiamo. Cities full, Savages. Oh, nowhere to go. He said, boy, feel no pain. Stand all night in the pouring rain. I see a light that you can't see. I hear a voice and it says to me. E questo è uno dei dischi che è andato veramente fino alla nausea. Era, diciamo, verso la metà degli anni 80, fine anni 80. Loro sono i Naked Prey, siamo in pieno filone neopsichedelico, adesso chiamato in 100.000 altri modi, ma insomma in quel periodo così si chiamavano. Loro sono Naked Prey, probabilmente l'abbiamo già detto, è il filone, diciamo, statunitense di questo genere musicale, molto molto bello, forse la chicca di quel decennio. Più che altro concentrato appunto nel triangolo tra Stati Uniti, Europa, Europa, diciamo principalmente Nord Europa e Australia, ovviamente. E qui stiamo parlando proprio della next time, della neopsichedelia, insomma. Questa è la next time della degli prima anni 80, ora. Esatto, degli anni 80. Beh, io direi che si può mandare da capo, però. Già! Blind man at the end of the road. Smile on his face, he got nowhere to go. He said, boy, feel no pain. Stand all night in the pouring rain. I see a light that you can't see. I hear a voice and it says to me, there's a reason for the glass to break. All day I sweat and all night I shake. Mountain dresses in only green, holds its crown without a king. A jack is better if it's got one eye. All day I laugh and all night I cry. I'm just waiting for the bow to break. For the bow to break. For the bow to break. 43 miles, dead man's road. There's such a thing, living too long. da Kid Messenger, loro erano i Naked Prey. E noi siamo a Radio Onda Rossa, 25 o'clock, 23, 40 minuti primi. Ancora passiamo a un'altra band, questa volta diciamo di cui gli elementi di spicco, vabbè, ve ne parliamo dopo, dai. Have you noticed the rivers and the clocks that are moving? What about all the birds you got stuck on your ceiling chirping? I breathe in but I choke, little things make a landslide go. If I knew just the pin to hold in, Radio Onda Rossa 87.9 della produzione frequenza, la banda romana e laziale, abbiamo ascoltato Dodger and Barn, che è il disco, il lavoro dei Dead Weather. Dead Weather, che dicevamo hanno come elementi di spicco sicuramente questa Alison Morshart, che è la cantante che avete ascoltato, nonché scrittrice e autrice dei testi per quanto riguarda i Dead Weathers. Insieme a Jack White, che meglio conoscerete come quel chitarrista un po' coatto dei White Stripe di anni addietro. Questo lavoro è più recente, del 2015. Completano la band Jack White alle percussioni, attenzione, Dan Peritan alle chitarre e ai diversi tipi di tastiere, piano e molte backup singing e i cori, insomma, e poi Jack Lawrence al basso e sempre ai cori. Bene, batteristi, diciamo, sempre abbastanza geniali nella scena musicale, insomma, quelli che poi hanno formato altre band, che hanno composto album, lavori singoli da soli, insomma, si sono particolarmente contraddistinti. Tanto per ricordarne uno, Granata, per esempio, no? Polistrumentisti, sì, è vero. Come si dice. Allora, torniamo agli anni Ottanta, torniamo alla California, la California del Nord precisamente, più sull'entroterra, dalle parti di Davis, quindi diciamo non così distante da San Francisco, quindi non la California della Los Angeles, che è padrona della scena forse qualche anno più tardi. Quella un po' più fresca, insomma. Quella un pochino più fresca. E sì, forse un pochino più intellettuale. San Francisco, insomma, comunque vicino a Berkeley, tutto quell'ambito lì. Sì. Forse potremmo dire anche più politica, se la guardiamo, certo, diciamo, con uno sguardo appunto più in ambito 70s e 80s, diciamo così. Sì, fino a poi Jello Biafra pure, che è di San Francisco. Qui in particolare, dicevamo, Davis, loro sono i Dream Syndicate, quindi Steve Wynn, fondamentalmente una versione, direi, abbastanza singolare, almeno io era veramente tanto tempo che non l'ascoltavo. Il brano è That's What You Always Say, e l'album invece è un album molto molto famoso, che è The Days of Wine and Roses. Dream Syndicate. That's what you always say. baby. I dig you. Siamo passati quindi a un'altra coppia, diciamo, di quelle celebri, o almeno lui è piuttosto celebre, lei ne racconteremo un po' la storia. Stiamo parlando di Boss Hogg, lavoro del 1995, band composta da Krista Martinez, Jordan Spencer, Jen Jorgensen e Hollis Quinn. Provenienti più o meno da Nowhere, New Hampshire, quindi stiamo parlando sempre di Stati Uniti. Joe Spencer a un certo punto si fidanzò con questa Krista Martinez, che faceva la gelataia, e quindi fecero questo gruppo. Lo ricordiamo quando ancora c'era la, non che non ci sia più, quando ancora c'era la Video Music, cioè la sia la televisione, insomma, come si chiamava? MTV. MTV. Ma forse si chiama ancora MTV? Sì, probabilmente c'è ancora, ma ormai le televisioni che mandano, cioè, diventati proprio dei canali tematici molto diffusi e di diversa così estrazione. All'epoca ancora, diciamo, fare dei video musicali era una cosa abbastanza sperimentale, insomma, e quindi si potevano cogliere anche da queste televisioni commerciali dei buoni incipit. Ricordiamo proprio che questa traccia andava per la maggiore, stiamo parlando di I Dig You, che abbiamo ascoltato. Quindi passiamo a quello che c'è dopo, che è salto d'oltreoceano, nel senso che attraversando il Pacifico e tornando verso la fine degli anni Ottanta, insomma la seconda metà degli anni Ottanta, caratterizzata da questa ondata neopsichedelica, questa volta appunto dall'altra parte del Pacifico, cioè l'Australia, che ha diciamo dei rappresentanti molto molto illustri e interessanti di questo filone, tra gli altri insomma Urgus, per esempio, quelli che ascolteremo, i Silver Rifles, Radio Birdam, forse Lime Spiders, ce ne sono tantissimi, però capogeneri. Stasera abbiamo scelto dei Silver Rifles, Blind Ear, che probabilmente potrebbe essere un ossimoro, insomma, cioè, orecchio cieco, una roba di questo tipo. E il brano è The Wonderful Life, sonorità diciamo sobborghi di Melbourne, prima metà degli anni Ottanta, sonorità molto molto vicine al punk, insomma, quel chitarra, basso e batteria che stava, sì, ormai comunque la neopsichedelia un po' ha risentito un po' tutta, però questa non è la classica, diciamo così, la vena della ballata, sì, tipicamente forse più classica di quel periodo, che ne so, i REM, certo, appunto, certo. Dai Pretty, ecco, tanto per parlare di Australia, Dai Pretty, Dreams in the Gate, anche Green or Red, forse prima di loro, e questa invece è molto più simile alla la parte bancheggiante, così come quella che ascolteremo dopo, per tornare in Europa, sempre su questo genere musicale. Intanto The Cerebral Rifles, Blind Deer, e il brano è Wonderful Life. American Express. I'm so appropriate, responses reply. Cholesterol is low, expectations are high. Yoga with my muesli. We go for sushi Wednesdays and Sundays. A beer for you, a wine cooler for me. Gee, I love my home computer. Got solar heating in my sauna and spa. I'm into tennis, zen and shiatsu. Here I am, and there you are. Such a wonderful. 87,9 la mutazione di frequenza, la banda romana e laziale, Radio Onda Rossa. Abbiamo ascoltato Motorama, disco del 2002, prodotto, diciamo così, lo diciamo perché va detto, insomma, ma non perché sia essenziale riguardo a quello che producevano nel Motorama all'epoca, da Bugo. Motorama che, anzi, approfittiamo, che vedevano appunto un trio tutto al femminile di garage punk, misto a Riot Girls, che era un po' quello che imperversava all'epoca, quindi queste band punk tutto al femminile. La nostra Danielona alla voce, Daniela dei Plutonium Baby, che non sarà all'ascolto anche perché c'ha da lavorare la mattina, che salutiamo comunque da questi microfoni. Mi prendo ancora qualche secondo per ricordare, innanzitutto perché vi ricordo, prima dicevamo Radio Onda Rossa, e Radio Onda Rossa non fa sempre solo di queste sciocchezze quali facciamo noi, ma produce anche tanta comunicazione e informazione, e deve rilanciare quello che è una cosa prioritaria in questo momento, che rompe un po', cerca di rompere quello che è il senso di impotenza che si ha su quello che sta succedendo a Gaza, e insomma il massacro di civili che appunto assume i connotati di genocidio, e questo non lo diciamo noi, lo diciamo da anni, ma lo dice una corte internazionale, insomma, comunque non esclude la possibilità che francamente non è possa, il timbro possa, no, però insomma, cioè, questo qui è ormai arrivata la situazione a livello talmente parossistico proprio di, esatto, la guerra del linguaggio, la formalizzazione, sì, sì, del linguaggio, sì. È talmente ormai una roba, poi queste cose per cui il 7 ottobre è stato l'inizio di tutto, cioè veramente esatto, non se ne può più. La radio in particolare, insomma, tutti coloro che sono stati solidali col popolo palestinese sanno che questa è la banale limpidezza, la banale verità, come si diceva, del male, cioè questa è una impresa di tipo coloniale, quella che ormai attanaglia da un secolo, insomma, quelle terre, una progressiva colonizzazione proprio di quei territori, l'avanzare dei coloni, e di questo stiamo parlando, e semplicemente una visione storica, questo è l'essenza, non è innegabile, non ha, con il, nel bene e nel male, insomma, in tutte le non c'è discussione su questo, non bisogna nemmeno discutere, insomma. E questo per dire, appunto, per rompere anche questo senso di impotenza. Tantissime sono state le manifestazioni fino a questo momento in Italia e in tutto il mondo per ribadire questo banale fatto, e per cercare semplicemente di fare una cosa banalissima e semplicissima, cioè di fermare, di dare una pausa al massacro. Non si riesce a fare nemmeno questo, perché comunque dietro Israele ci stanno grandi potentati, a livello internazionale c'è una guerra proprio geopolitica ormai lampante, e anche questa qui, cioè innegabile. Bene, il 23 e il 24, il 23 c'è uno sciopero generale per la Palestina indetto dai sindacati di base essenzialmente, e il 24 di febbraio la manifestazione nazionale a Milano, a Piazza Loreto alle 14:30. Affrettatevi, cioè cercate di arrivare a Milano, cerchiamo di essere tutti a Milano per la manifestazione nazionale sulla Palestina. Non so, cioè sicuramente serve, non so quanto questo possa servire, ma è, diciamo, anche un tentativo che si fa per non essere comunque complici del massacro, insomma, e quando potete e quando dovete infilate il nome della Palestina, e infilate la questione palestinese in ogni situazione, perché è importantissimo che sia al centro della del dibattito pubblico, delle azioni anche che si fanno quotidianamente giorno per giorno. Questa è Radio Onda Rossa 25 o'clock, a te. Yes, torniamo, dicevamo, l'ultimo brano, insomma, di questo mini, di questa mini sequenza sulla sull'ondata neopsichedelica punk, diciamo, della seconda metà degli anni Ottanta, in Europa, in Scandinavia, precisamente la Svezia dei Union Carbide, che ho scoperto, tra l'altro, cioè, ho rivisto recentemente che per quanto noi in passato avessimo attribuito il nome di questo gruppo alla Union Carbide americana, che, diciamo, più che altro la strage di Bhopal in India, esatto, no? che operò diciamo, a proposito di colonialismo, la strage della famosa mezzanotte 5 a Bhopal, quando appunto una fabbrica di pesticidi Esplose in virtù, diciamo, della negligenza e dell'inettitudine del management e dello staff, diciamo, di questa cordata di potere che sfruttava la manodopera locale, e causando, diciamo, quasi 30.000 morti. Un disastro analizzato in lungo e largo, scritto su numerosi romanzi, una vicenda, una pagina scura, davvero scura, di quegli anni, di quel periodo. Un'altra di quelle stragi, però, tutto sommato, dimenticate. Perché poi, appunto... Sì, abbastanza dimenticate, è vero. E ecco, per quanto pensavamo che questo gruppo dedicasse il loro nome a questa vicenda e a questa azienda, per non dimenticare, in realtà non è così. Union Carbide era qualcos'altro, e comunque il riferimento alla vicenda di Bhopal non è esplicitamente detto e dichiarato, insomma, per cui così è andata. Comunque loro sono Union Carbide Production e il brano è How Do You Feel Today, l'ultimo di una breve, tutto sommato, discografia di 4 album. Il disco in particolare di cui stiamo parlando è Swing. Allora, ci siamo, Dimitri Coats e Melan Campbell in arte. In arte. Barney Brights, formazione dei primi anni 2000, non so se hanno, noi abbiamo nella nostra discoteca due lavori loro, questo qui il primo del 2002, da cui abbiamo ascoltato Arctic Snow, un altro gruppo insomma a metà 50% maschi e femmine, Melan Campbell però questa volta non si sente la voce perché suona solamente il basso. In vena di pari opportunità stasera. Sì, no? Ma no, diciamo che suonano estremamente bene, quindi ce ne freghiamo proprio che sia tutto. A suonare. E tra l'altro vedi come piano piano la scaletta si comincia, come la lunga catena del DNA mi viene in mente, comincia ad intrecciarsi e cominciamo a rimpallarci sonorità piuttosto simili una all'altra. Beh, attenzione, adesso c'è una piccola sorpresa che ovviamente non annuncio, altrimenti non sarebbe tale. Va bene, questo era Neil Young che ha accompagnato il quel, come dire, quel capolavoro, Dead Man Woman, che io reputo perlomeno un monumento del cinema, dell'arte, della fotografia, della bellezza in genere. Ma un'associazione poi fra la colonna sonora e le immagini spettacolari, cioè, esatto. In realtà non si tratta di una colonna sonora, ma di un film musicato, cioè la colonna sonora, fammi finire, è dalla prima scena fino all'ultima, cioè non smette mai, tanto dura il film, tanto dura la colonna sonora. Tra l'altro con questa quasi litania, diciamo, sì, distorta, spettacolare. Dove Neil Young usa questa dualità tra l'elettrico e l'acustico, dove l'elettrico è esageratamente distorto, dove lui usa i distorsori, credo, come non abbia mai fatto nella sua vita e forse come non ha mai fatto nessuno in passato. Una roba. Sì, restituisce questo suono crudo alla chitarra, proprio. Molto, molto particolare. Sì. Secondo me, più che un film, quella è una suggestione, ecco. Sì. È una roba di questo tipo, non saprei come altro. Sì, è una sorta di sogno, di qualcosa di onirico, ma. Vai! Era tra l'altro Neil Young nella regia di Jimmy Jarmusch e ovviamente Johnny Depp che era l'interprete protagonista. Insomma, un trittico abbastanza singolare e devo dire irripetibile. Eccoci qua, ci siamo, e queste note iniziali ci servono per ricordare proprio come è fatto questo disco, invidiabile anche per noi che mettiamo i dischi, che mettiamo musica in radio, perché è una di quelle band che si chiama Pilot Scott Tracy, e questo ci ricorda che la band è composta principalmente, poi ci stanno anche altre tre persone che ci suonano, da Pilot Scott e Miss Tracy, quindi facilissimo anche da ricordare. Vorremmo che tutte le band si chiamassero così, cioè tipo Piero e Francesca, Giovanna, Giacomo e l'amici sua. Questo ci faciliterebbe molto la vita, invece di cercare questi nomi, no? Sarebbe un bel suggerimento. Decisamente. E da qui abbiamo ascoltato Babies, e proprio questo dicevamo, partono le note sotto di noi, perché innanzitutto, vabbè, prodotto dalla Alternative Tentacles, non mi veniva. Che cosa è successo? Si stava ammazzando da lì. E non ha resistito, è sceso giù proprio. Questa mia esploa fuori dalla portata del microfono. Alternative Tentacles di Jello Biafra, però diciamo un dischetto proprio fra punk e synth pop, diciamo così, fighissimo, ascoltabilissimo, anche se sempre molto poi acido, molto crudo. Cosa abbiamo di fronte a noi? Allora, adesso andiamo un po' a randa, diciamo, fino alla fine, che peraltro per quanto riguarda la mia scaletta è abbastanza di qui a breve. Sì, ci siamo, paio pure di brani. Noi, ci siamo pure noi, possiamo pure saltare qualcosa e andare alle conclusioni, perché si è fatta 32 minuti dopo la mezzanotte. Ma non prima di aver fatto un salto. Diciamo, sì, una terra un po' strana, che in genere è abbastanza, come dire, scarsa di produzioni musicali. Stiamo parlando dell'Islanda. Sì, e Björk, lei, no? E lei ovviamente è Björk. E, siamo alla fine degli anni 90, diciamo la seconda metà degli anni 90. Un personaggio abbastanza, come dire, singolare. Non so bene. È difficile collocarla in, come dire, in un genere. Se fosse un discorso letterario, non so, la collocherei a Banana Yoshimoto, non so perché, ma mi viene questo. Ma guarda, io devo dire che ascoltando, proprio perché poi un po' il tema di sottofondo doveva essere questo, quanto poi influisce il carattere femminile, cioè questa entrata a gamba tesa delle donne in generi che molte volte non erano, da protagoniste in generi che non erano necessariamente propriamente femminili, insomma, nati un po', anzi, con intenti, con caratteristiche quasi esclusivamente maschili. Invece questa entrata, così ascoltando, mi sembra che le donne in generale abbiano un come si dice, vanno a disturbare molto la questione, cioè vanno a rigirare tutte le carte, a rimettere in gioco la sensibilità forse femminile, aggiunge questo rimescolamento e questa reinterpretazione in una chiave forse atavica, che chissà da quanti millenni viene, e rimischia tutto quanto. Björk forse fa un po' questo lavoro. Diciamo che prima di lei ci sono stati personaggi, per tornare così, negli Stati Uniti, anche molto molto importanti, dei quali avremmo voluto parlare, ma insomma non ci siamo riusciti per discorsi tecnici che ci hanno rubato un sacco di tempo e che non ci hanno portato a nulla. Ma avremmo potuto parlare di, che ne so, Laurie Anderson, avremmo potuto parlare di Amanda Gallas, chissà quante ne avremmo potute citare di personaggi femminili molto molto dirompenti, e non solo per un fatto tecnico musicale, ma artistico a 360 gradi. Certamente. Va bene, quindi si addice anche a Björk, che insomma attrice, che più ne ha più ne metta, insomma, artista a tutto tondo. In genere un eclettici, diciamo, più diffuso nel ramo della produzione femminile rispetto a quella maschile, anche se, insomma, diciamo, da un punto di vista del genere maschile, comunque personaggi eclettici molti ce ne sono stati. Johnny Depp suona, per esempio, tanto per dirne una. Garage punk, punk pure lui. Però ecco, in ambito femminile mi sembra che la percentuale di ecletticismo sia molto superiore. Sì. Va bene, abbiamo fatto un sacco di chiacchiere. All New Like è il titolo del brano. L'album è quello, è abbastanza famoso perché lei ha un abito tipico, diciamo, orientale. Si chiama Homogenic. Dicevamo appunto, seconda metà anni 90, 1997, se non vado errato. Not till you halo all over me, I'll come over. Not till you halo all over me, I'll come over. Not till it shimmers round your skull, I'll be yours. I weave for you the marvelous web, glow in the dark thread. siamo quindi. Allora, Desert Session, cos'è Desert Session? Desert Session sono dei dischi che escono ogni tot anni, 5, 10, 7, insomma, varia molto la cosa, e girano intorno alla figura di Josh Homme, che chiama una serie di amici, musicisti, conoscenti, eccetera, eccetera, a Rancho della Luna, che è un posto in mezzo al deserto, dove fanno una chiusa di 2, 3, 4 giorni, registrano 10 tracce e fanno un disco, esce e basta, è finita così. In questo caso, cioè nel Desert Session 9 e 10, poi non so perché escono i volumi, escono sempre, cioè si chiama Desert Session 9 e 10, poi abbiamo 11 e 12, poi abbiamo 13, cioè escono sempre a volume doppio. Questo è un mistero che non ci è dato di conoscere il senso. Cioè, sono fatti loro, anche sono fatti loro, che noi le prendiamo così come immanenza. Questo è. In questa, questo Desert Session 9-10 suonano Josh Homme, Dan Wynn, Alan Johnson, Troy Van Leuren, Triggy Ramirez e PJ Harvey. E in questo caso abbiamo ascoltato PJ Harvey e Josh Homme insieme in questa traccia che si chiamava Crawl Home. Conclusioni a te, poi piano piano ci avviciniamo, mancheranno 5-6 tracce. Sì, beh no, conclusioni per quanto riguarda la scaletta, per me questo è l'ultimo brano, ne avrei anche degli altri, ma insomma... Si è fatta una certa. Ma non, oltre quello bisogna dare un taglio e un criterio che abbia un minimo di logica, insomma. A questo punto un brano che... non abbiamo mai ascoltato nel corso, diciamo, della Next Time, è un brano abbastanza recente, anche se il gruppo è un gruppo che viene dagli anni 80. Personalmente non frequentato più di tanto, si chiamano The Insects, una versione veramente sorprendente di un brano abbastanza noto, insomma, che riconoscerete, che si intitola Never Met a Girl Like You Before. Questa è una versione davvero molto molto singolare e per quanto mi riguarda appunto è un fuoriscaletta, più che un fuoriscaletta è un brano in scaletta ma fuori, diciamo, dal seminato temporale che appunto ha attraversato gli anni 80, 90 e 2000 in diverse sfaccettature. È stato un piacere come al solito, la tecnologia non ci assiste, ma, no. Ma sarebbe a questo punto sarebbe strano il contrario, insomma, no? Sarebbe un'antitradizione il contrario, quindi va bene così, va assolutamente bene così. La prossima chissà quando, speriamo presto, perché almeno io mi sono divertito, spero anche... No, come al solito si parte sempre molto sconclusionati, ma certo. Poi il senso viene fuori anche se non è quello che ci aspettavamo. E quindi un senso alla fine ce l'ha. Ce l'ha, però Beh. Non era quello voluto. Bene, e invece i baci e abbracci all'amore nostro più tardi, insomma, sì, abbiamo ancora tempo. Un po' di tempo. A presto.

linea e poi rimettiamo da capo, perché questo è Pavel. Allora, volume 11 per Desert Session. Stavolta c'era Libby Grace alla voce, Mattia Sweeney alla chitarra acustica e altri strumenti, Devil May Kerr al basso, Carla Zà alle batterie e Joshua Home altre chitarre, più numerosi altri strumenti. If You Run abbiamo ascoltato. Quello che va invece sotto la nostra voce è un'anteprima assoluta, almeno a Radio Onda Rossa. Si tratta dell'ultimo singolo, anzi ultima coppia di brani che manda Pavel da Bologna, e ce l'ascoltiamo con questo drill rap da capo. Quindi non dico un ascolto, perché l'ho sentita ieri un paio di volte, però quasi un ascolto anche per noi, primo. Bene. Carità a me voce, dicevo. Eccoci qua. Allora, Pavel lo abbiamo imparato ad apprezzare col suo ultimo, prima di questo, lavoro, cioè il lavoro compiuto che si chiamava Swarovski. Queste sono le sue due ultime tracce. Tu ci ricorderai anche qual è il nome. Pavel la viene conosciuto anche qui in concerto a Roma per la radio e in tante altre occasioni con il suo progetto hardcore che si chiama e si chiamava Repressione, e che suona pure per un'altra greencore death band che si chiamano i Crisis Benoit. Titolo del brano era Anatomia del Terrore. Anatomia del Terrore, che dovete andare a cercare su Bandcamp, Pavel, perché è anche molto interessante il testo, che appunto un po' descrive questo senso di apatia e di impotenza che si ha oggi, e che finisce appunto con le parole non so nemmeno dove sta, o qualcosa del genere, non so nemmeno dove sta sulla cartina la Palestina, insomma. Invece qua sotto la nostra voce la mandiamo subito da capo, sempre per ricordare il concerto del 16, non l'avevamo fatto l'altra volta, lo vogliamo fare oggi, veramente una sorpresona visti dal vivo, poi mi hanno tutti confermato, guarda, dal vivo sono veramente spettacolari, hanno fatto un'esibizione di un'ora senza respirare e senza farci respirare, quindi Giuda, annuncia della traccia e la mandiamo da capo. Tempo appunto le macchine impazzite, partita pure la sigla, tra l'altro fra le altre cose diciamo pure che è saltata la cella del telefono perché stiamo pure fuori internet, la password del wifi non ce lo ricordiamo, quindi andiamo tutta a memoria come una volta alla grande. E ancora Pavel, la sigla diciamo era partita, poi dopo la rimetteremo alla fine, prima dei saluti finali. Questa di Pavel invece, l'altra traccia, come si chiama? Allora, questa recente si chiama La configurazione del lamento. La configurazione del lamento, quindi, di Pavel. Del mio operato frustrato e impazzito. Abbiamo concluso, ci siamo. Finalmente ancora Giuda di sottofondo con il loro glam rock and roll, punk, psycho, insomma chi più ne ha più ne metta. Le trasmissioni di Radio Onda Rossa finiscono qui, si riprende, vi darà compagnia la compagnia automatica Sonata per tutta la notte con le sue repliche, le sue bizzarre selezioni musicali, più bizzarre ancora di noi. Invece le programmazioni in diretta riprenderanno domattina, rassegna stampa, redazionali, tutta scena cinema, la schiena del Attica Blues, la schiena del Soul, Tabula Rasa e i cuginetti d'Apostasia, quelli di una volta, quelli dei ricordi. Sì, quelli sì. Quindi si riprende con tutta questa cosa e il nostro saluto più importante, come al solito, va a tutte e tutti coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, carceri, militanza, clandestinità, arresti domiciliari, famigerati, centri di detenzione per migranti, eccetera, eccetera, eccetera. I decreti amministrativi comunque e la repressione che non molla mai, quella lì sì, e in forme esplicite molte volte e in forme invece molto più nascoste, come vi raccontavo un po' di tempo fa, e contro compagni e compagne, contro chi si muove, contro i movimenti, contro un po' tutti e tutte noi. E invece a te lascio la parola per ci siamo dopo tanti anni, però non c'è molto altro da dire, non dimentichiamo. Io, Roberto, esatto, pensavo proprio al nano mentre venivo qua, ero fermo sul traffico della tangenziale e niente, mi è venuto in mente che in realtà siamo effettivamente più soli di prima, ma tutt'altro che soli. Tuttavia, da quando non c'è Patata non siamo più in compagnia come eravamo con lui, insomma, non, perlomeno a me non è più capitato, ecco, di incontrare un personaggio, un nano del genere, un nano malefico, l'amore nostro. E vabbè, insomma, se n'è andato, ci ha lasciato tanta musica e tanti ricordi più o meno sobri. Ci ha lasciato una strada da percorrere, dicevamo, quello è stato un onore, ma anche un onere, insomma, perché poi, ecco, per fortuna c'è chi ci assiste, continuano ad arrivare appunto proposte di gente che suona e questo è quello che ci riempie di più di piacere. E poi, insomma, il nano, lo sapete tutti, aveva un bozzo dietro la nuca, ecco, e con quel bozzo ci abbiamo fatto un concorso, è stato un momento concorso che non ha vinto nessuno mai vincerà segnato. Nessuno mi dispiace, è andata così. Va bene, dai, a presto, speriamo di avere pure il Conte nelle prossime occasioni, non sappiamo come farlo, andremo a prendere a casa con la carrozzina proprio. Magari mettiamo, ci trasferiamo, portiamo un mixer a casa del Conte, sì, che secondo me funzionerà sicuramente meglio, certo, e facciamo in streaming, esatto. Da là, dai, bacio, un abbraccio a tutti, buonanotte, la sigla stavolta, dai. again tonight will win. Dreams, I'll share.